24, i gialli della storia. La terra si aprì e tutto fu inghiottito. Ci stringemmo, ci nascondemmo sotto le coperte urlando: è la fine del mondo. A stento ci aggrappammo a qualcosa per non farci sballottolare di qua e di là. Il letto si muoveva per tutta la stanza come un aquilone. Ricordo che vedevo il fuoco e tutto intorno fumo ovunque. È l'alba del 18 aprile del 1906. Per 40 lunghissimi secondi a San Francisco la terra trema. Crollano gli edifici, si piegano le rotaie, scoppiano le tubature del gas. Più di 50 incendi devastano la città. San Francisco brucia per 3 giorni. Il terremoto rade al suolo migliaia di edifici, alberghi, scuole, teatri, fabbriche, chiese. Al principio si contano 400 morti, ma alla fine il bilancio supererà i 3.000 morti. Ma è straordinaria la storia di questa città e della sua ricostruzione e del coraggio di migliaia di uomini. Oggi a Mix24 racconteremo quei momenti attraverso le testimonianze di alcuni sopravvissuti che con i loro ricordi ci aiuteranno a rivivere quella terribile vicenda. Agli inizi del Novecento, San Francisco ha 400.000 abitanti, per lo più immigrati da tutto il mondo. Per dimensioni è la nona città degli Stati Uniti, la più importante della costa occidentale. Il grande terremoto del 1865 è solo un lontano ricordo, quasi una parte folcloristica della tradizione della città. San Francisco è stata praticamente rasa al suolo 6 volte dai tempi della sua fondazione, ma anche questa eredità sembra solo un retaggio del passato. Il corpo dei vigili del fuoco ha la reputazione di essere invincibile. Molti di quelli che guardano con fiducia a questa città sono immigrati. Un terzo della popolazione, infatti, proviene da paesi stranieri e un altro terzo sono figli di immigrati. Quando mio padre arrivò qui dall'Italia, trovò immediatamente un lavoro a Fillmore Street. Il nostro negozio era proprio di fronte a un fornaio, noto come il forno di Wykery. Mamma arrivò e subito ottenne un impiego proprio vicino a dove papà lavorava. Lui consegnava verdura e lei apriva la porta del magazzino. Così si sono incontrati. Per migliaia di persone che si sono riversate sui suoi moli fin dai tempi della corsa all'oro, San Francisco rappresenta una calamita, una terra promessa all'estremità dell'arcobaleno. Il primo approdo di molti di quanti sbarcano in America a San Francisco è il quartiere chiamato South of Market. Qui sorgono abitazioni di legno molto economiche, ammassate le une accanto alle altre come un castello di carte da gioco. Saranno le prime a prendere fuoco. Le stradine erano come colonie. Tutti gli irlandesi si erano sistemati in un piccolo quartiere, mentre gli olandesi in un altro, e gli ebrei in un altro ancora. E c'era come una cordialità diffusa. Anche North of Market è una città dentro la città. Qui vivono 20.000 cinesi. Chinatown era ben delineata. All'epoca era composta solo da 5 isolati e nessuno si avventurava oltre Powell Street o Broadway a nord. A pochi passi da Chinatown, ma distante un mondo intero, sorge il Palace Hotel. È qui che scende la gente facoltosa che arriva in città. Cristalli e marmo nei corridoi. E in ogni stanza addirittura il lusso del telefono e di una vasca da bagno. C'è anche il più moderno sistema di allarme antincendio ed estintori. Il Palace è stato costruito per essere indistruttibile, proprio come il Titanic. Al Palace Hotel, il 17 aprile 1906, scende anche Enrico Caruso. Arriva con 54 bauli e 50 autoritratti. Quella sera stessa sale sul palco per interpretare il ruolo di Don José nella Carmen alla Grand Opera House di San Francisco. Nel quartiere denominato Barbary Coast, i cinema mostrano immagini scandalose. Gli uomini della buon costume sono attenti e vigili, sempre che qualcuno non li paghi per non esserlo. Il sindaco di San Francisco, Eugene Schmitz, sembra perfetto per essere a capo di questa città corrotta. San Francisco è quindi una città in cui regnano intolleranza etnica, povertà e corruzione, ma siamo alla notte del 18 aprile. Stavo dormendo con mia madre e pensammo che fosse la fine del mondo. Ci stringemmo, ci nascondemmo sotto le coperte urlando «È la fine del mondo!». Ovviamente eravamo morte di paura. Provammo ad alzarci, ma non ci riuscimmo. A stento ci aggrappammo a qualcosa per non farci sballottolare di qua e di là. Il letto si muoveva per tutta la stanza come un aquilone. Provammo a uscire dalla porta della cucina verso il cortile, ma la canna fumaria era rotta e i mattoni caduti ostruivano la porta. Non riuscivamo a uscire. Il terremoto colpisce San Francisco mercoledì 18 aprile 1906, esattamente alle 5:12 di mattina. Ma San Francisco non è l'unico luogo a venire colpito. Per circa 300 chilometri lungo la faglia di Sant'Andrea, la crosta terrestre scivola di oltre 6 metri. A San José 8.000 persone rimangono senza tetto. Santa Rosa, una cittadina di 7.000 abitanti, viene rasa al suolo. Il terremoto ha un impatto equivalente a 6 milioni di tonnellate di TNT, approssimativamente 12.000 volte la potenza della bomba di Hiroshima. C'era molta gente che vagava, alcuni con le carriole e i propri vestiti. Altri con i pappagallini, i canarini e tutto quello che erano riusciti a portarsi via. Ricordo di aver visto un tizio che faceva rotolare un barile di whisky. Mia madre continuava a ripeterci: «Ho il presentimento che sia successo qualcosa a vostro padre». Neanche mezz'ora dopo, mia madre vide un cavallo e un carro che tornavano e era guidato da una persona che non conosceva. Mia madre capì allora che era come temeva. Le dissero che mio padre era morto nel terremoto. Ma ciò che nessuno ancora sospetta quel giorno è che a San Francisco la tragedia è appena all'inizio. Le scosse, infatti, hanno scoperchiato le tubature di gas e fatto crollare le canne fumarie. In tutta la città scoppiano oltre 50 incendi simultaneamente. Sebbene il sistema telefonico e di allarme centrale siano distrutti, i vigili del fuoco entrano in azione anche spontaneamente. Quando però arrivano sul luogo dell'incendio, scoprono che l'acqua non c'è. Il terremoto, infatti, ha distrutto la maggior parte delle condutture che portano l'acqua alla città. Per giunta anche gli idranti sono scoppiati, esaurendo la riserva d'acqua di cui disponevano. Le autorità, di fronte al propagarsi incontrollato degli incendi, pensano di usare la dinamite per circoscrivere le zone in fiamme, ma polvere da sparo e dinamite nelle mani di persone inesperte finiscono con ottenere il risultato di propagare ulteriormente l'incendio invece di contenerlo. Nelle prime ore del pomeriggio un operatore telegrafico batte l'ultimo messaggio di San Francisco al mondo. Ore 14:30. La città è praticamente distrutta dal fuoco. È a mezzo isolato di distanza da noi. Il Cole Building è interamente distrutto. L'Examiner Building è appena crollato in un cumulo di macerie. Fuoco in ogni direzione. Sono le 15. Tutte le linee telegrafiche sono interrotte. San Francisco è isolata. Accanto al Monadnock si erge il Palace, dove Caruso ha trascorso la notte. L'albergo resiste alle fiamme fino alle 15:30, quando il sistema di estintori finisce le scorte. I barman forniscono ai soccorritori bottiglie di vino pregiato, mentre la Guardia Nazionale compie l'ultimo tentativo per salvare l'albergo. Poi alle 17 l'albergo crolla. Verso il pomeriggio, in alcune zone della città, l'incendio assume le proporzioni di una tempesta di fuoco. Ricordo che vedevo il fuoco e tutto intorno fumo ovunque. Guardavo il sole, o era la luna, non mi ricordo cosa fosse, ma era qualcosa di molto rosso. Ho avuto a lungo incubi, mi tornava in mente quel rosso intenso del sole. Quella sera un giovane giornalista osserva la scena. Il suo nome è Jack London. Ebbi la sensazione che tutto fosse perduto. Camminai per miglia e miglia attraverso edifici vuoti. Nel calore intenso della città si aggiravano due soldati a cavallo che guardavano qua e là. La desolazione era totale. Migliaia di persone erano riunite in piazze e parchi, mentre il fuoco infuriava indisturbato dappertutto. Altri guardavano dai tetti di Telegraph Hill, di Russian Hill e di Nob Hill. Sembrava, in quel momento, che non ci fosse più nulla da fare se non guardare. Ora è 22. Gli edifici andati in fiamme sono già 250. South of Market è distrutto, e così il quartiere finanziario. Chinatown e Barbary Coast andranno in fiamme di qui a poco. La notizia del terremoto fa il giro del mondo, ma ci vorranno ancora dei giorni perché si possa capire l'entità del disastro. Intanto nella città si diffonde la voce che alcune barche sarebbero disposte a traghettare le persone attraverso la baia. In migliaia si dirigono verso il lungomare, verso quella nuova speranza. I miei genitori riuscirono ad affittare un furgone. Noi gli dicemmo che volevamo andare sul lungomare e prendere la nave per Richmond. Chiedevano $20 per il tragitto, una somma considerevole per quel tempo. All'epoca un cinese in media guadagnava $15 al mese. Alla fine della lunga marcia, quando le persone finalmente raggiungono il ferry building, viene detto loro che possono portare solo un bagaglio a mano. A mezzogiorno del 19 aprile, 250.000 persone sono senza casa. I morti accertati sono più di 3.000. Ed è solo l'inizio. San Francisco continuerà a bruciare per altri due giorni. Quando l'incendio si spegne, per i superstiti la vita è terribile. Mancano i generi di prima necessità e l'acqua potabile è un bene prezioso. Ma prima che il disastro si manifesti in maniera ancora più devastante, cominciano ad arrivare i primi aiuti. Fortunatamente, prima che l'incendio riesca a divorare tutto, le provviste arrivano a San Francisco in abbondanza. Guarnigioni militari da Portland e da Seattle inviano 900.000 razioni, mentre da Los Angeles arriva un treno di provviste. Hearst mobilita tutti i suoi giornali e organizza 12 treni pieni di aiuti da New York. A Washington il Congresso stanzia $1 milione. Altri aiuti in denaro arrivano da città, paesini e organizzazioni di tutti gli Stati Uniti. Dalle rovine fumanti spuntano le prime mense per i poveri e la città si mette in fila. Io e mio padre, assieme a molti altri, stavamo in fila dalla mattina presto fino alle 5 del pomeriggio. E quando ti sentivi dire «ci dispiace, è finito tutto», dovevi aspettare fino al giorno dopo per non perdere il posto. Funzionava così. Una settimana dopo la fine dell'incendio, più di 200.000 persone hanno trovato rifugio nei campi profughi allestiti nei parchi e nelle piazze della città. I quotidiani di San Francisco descrivono la vita nei campi come qualcosa di assolutamente eroico. Si racconta di uomini e donne di frontiera, ridotti alle necessità di base della vita, che tengono duro, come i coraggiosi pionieri del 1849. Cucinavamo fuori, davanti alle tende, e la sabbia volava dentro i fagioli. Era un disastro. I granelli di quella dannata sabbia nei fagioli. Per anni non ho più potuto guardare un fagiolo. Un altro grande problema sono i servizi igienici. Con le fogne bloccate si temono le epidemie, In particolare, i topi delle fogne potrebbero portare la peste bubonica. Se c'era una cosa che mia madre odiava, erano i topi. Avevamo 5 trappole per topi, per tutti noi rifugiati. Quando rientravamo nel pomeriggio, io controllavo le trappole per vedere se erano stati catturati i topi. Se ce n'era uno, il mio cane Sandy, un fox terrier, cominciava a scodinzolare e aspettava che io lo tirassi fuori dalla trappola per prenderlo e ucciderlo. I volontari ripetono un ritornello. Anche in mezzo a rovine maledette preferisco essere un mattone piuttosto che vivere in qualunque altro posto che non sia San Francisco. La grande ricostruzione è cominciata. In tutta la città vengono poste le rotaie per i treni che dovranno portar via le macerie. I lavori per la rete tranviaria cominciano immediatamente. La United Railroad rimpiazza le condutture di cavi con cavi aerei per i nuovi mezzi elettrici. Dopo solo 10 giorni dal terremoto, il sindaco Schmitz inaugura il servizio sulla prima linea. La gente brinda al passaggio del primo tram. Migliaia di lavoratori hanno prestato il loro servizio in una corsa contro il tempo. I giornali parlano di rinascita della città. Un giornalista scrive: l'economia di San Francisco non è andata distrutta, solo i suoi mezzi. Può darsi che in città ci sia qualche uomo d'affari che non stia progettando di tornare al vecchio splendore, o almeno a quanto più gli si avvicina. Di certo, le prime pagine non ne parlano. Questo è il paese delle opportunità. Ognuno può ricominciare. Il ricco come il povero. Il capo della polizia siede accanto alla porta del droghiere all'angolo e il comitato di supporto lavora 24 ore al giorno dentro un negozio di frutta e verdura. Cucinando la cena in strada si possono incontrare ragazze che hanno studiato a Stanford, a Berkeley, a Vassar, a Bryn Mawr. La perdita di vite non è enorme. È la perdita delle posizioni sociali ad essere colossale. Alla fine, tutto ciò che conta è l'amore reciproco. L'umanità è come livellata. Siamo tutti sullo stesso piano. Nel giro di 6 mesi molte famiglie raggiungono San Francisco da tutta l'America per partecipare attivamente alla ricostruzione. Dopo solo 3 anni saranno realizzate 20.500 nuove costruzioni e sulla baia si affaccerà una città completamente nuova e pronta a una nuova vita. La popolazione di San Francisco condivide un senso di trionfo. Vuole cancellare il ricordo del disastro, come se volesse rassicurare se stessa e tornare a sentirsi una città invincibile. Grazie all'ostinazione della sua popolazione, San Francisco tiene il privilegio di ospitare l'Esposizione Universale del 1915. La cerimonia d'apertura è prevista per il 20 febbraio. Vengono invitati anche i cinesi. Mettono in scena una grande parata lungo le strade della città fino ai padiglioni dell'esposizione. Anche gli italiani organizzano i loro festeggiamenti, celebrando Cristoforo Colombo, l'uomo che ha scoperto l'America, e con lui Giuseppe Garibaldi. Gli attori Fatty Arbuckle e Mabel Normand, signori incontrastati delle comiche, vengono accolti da James Rolfe, il nuovo sindaco, sulle scale del palazzo del municipio, ancora da terminare per metà, simbolo della nuova amministrazione della città. Le meraviglie della tecnologia moderna sono molto rassicuranti. Sembrano dimostrare il trionfo dell'uomo sulle forze della natura. Lo stesso Dipartimento dei Vigili del Fuoco dell'Esposizione Mondiale viene dotato delle attrezzature più moderne. L'ultima carrozza a vapore trainata da cavalli è andata in pensione l'anno precedente. Grazie ai nuovi camion motorizzati per i pompieri e all'installazione di condutture di acqua ad alta pressione in tutta la città, si diffonde la speranza che un incendio come quello seguito al terremoto non possa mai più scoppiare. A dispetto dei timori di un nuovo terremoto, decine di migliaia di persone accorrono a San Francisco. Nessuno può dire con certezza che la città sia davvero invincibile. Di sicuro c'è solo una volontà incrollabile e l'esempio della gente che vuole voltare pagina. Si manifesta così uno spirito impetuoso e indomito, capace, all'indomani del disastro, di ricostruire un'intera città dalle sue ceneri e inaugurare un'esposizione universale. Per me era come un mondo incantato, una magia. Quella fu per me l'età d'oro. Avevo 15 anni ed era tutto bellissimo. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.